da Napoli laggiù, lo suonano gli spugnizzi da un secolo e ancor più. Lo suona Ogilvy Lor, ballando con la Miss. Lo suonano anche i sordi. Va bene, bravo Miss! Col trinche ballacche, viva la faccia, viva la faccia dell'allegria. Io lo suono alla faccia tua. E tu lo suoni alla faccia mia. Col trinche ballacche, tu la lalera, noi cantiamo mattina e sera. Prendi il mondo così com'è. Aumentano i fitti, aumentano le tasse. Se ogni giorno più cara è la vita, se l'amore è una cosa stonata, ci facciamo una bella suonata e felici dobbiamo poter. Quattrinca ballante, viva la faccia dell'allegria, io non sono la faccia tua, non lo sono la faccia mia. Quattrinca ballante, culo la lera, noi cantiamo mattina e sera, prendi il mondo così com'è. Aumentano i fitti, aumentano le tasse. Se ogni giorno più cara è la vita, se l'amore è una corda stonata, ci facciamo una bella suonata e felici dobbiamo godere. Aumentano i fitti, aumentano le tasse. Se ogni giorno più cara è la vita, se l'amore è una corda stonata, ci facciamo una bella suonata e felici dobbiamo godere. Col tricche ballacche, col trullalallera, col tricche ballacche, col trullalallera.